Ad alta voce, Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. 14ª puntata. Non tutti i signori valevano allo stesso modo. C'era qualcuno più importante, più ricco, che nemmeno invitava le mie padrone. E allora cominciai a chiedermi che cosa dovevano essere le stanze e il giardino del nido di quell'antica palazzina perché Irene e Silvia morissero d'andarci e non potessero. Si sapeva soltanto quel che dicevano Tommasino e certi servitori, perché tutto quel fianco della collina era cintato e una riva lo separava dalle nostre vigne, dove nemmeno i cacciatori potevano entrare. C'era il cartello. E alzando la testa dallo stradone sotto il nido, si vedeva tutto un fitto di canne bizzarre che si chiamavano bambù. Tommasino diceva che era un parco, che intorno alla casa c'era tanta ghiaietta più minuta e bianca di quella che il cantoniere buttava a primavera sullo stradone. Poi i beni del nido andavano su per la collina dietro, vigne e grano, grano e vigne, e cascine, boschetti di noci, di ciliegi e di mandorli, che arrivavano a Sant'Antonino e oltre, e di là si scendeva a Canelli, dove c'erano i vivai coi sostegni di cemento e le bordure di fiori. Dei fiori del nido ne avevo visti l'anno prima, quando Irene e la signora Elvira c'erano andate insieme e tornate con dei mazzi che erano più belli dei vetri della chiesa e dei paramenti del prete. L'anno prima capitava di incontrare la carrozza della vecchia sulla strada di Canelli. Nuto l'aveva vista e diceva che il moretto servitore che la guidava sembrava un carabiniere col cappello lucido e la cravatta bianca. Da noi questa carrozza non si era mai fermata, solo una volta era passata per andare alla stazione. Anche la messa la vecchia se la sentiva a Canelli, e i nostri vecchi dicevano che tanto tempo fa, quando la vecchia non c'era ancora, i signori del nido non andavano nemmeno a sentir messa, ce l'avevano in casa, tenevano un prete che la diceva tutti i giorni in una stanza. Ma questo era ai tempi che la vecchia era ancora una ragazza da niente e faceva l'amore a Genova col figlio del conte. Poi era diventata lei la padrona di tutto. Era morto il figlio del conte, era morto un bell'ufficiale che la vecchia si era sposato in Francia, erano morti i loro figli chissà dove, e adesso la vecchia, coi capelli bianchi e un parasole giallo, andava a Canelli in carrozza e dava da mangiare e da dormire ai nipoti. Ma ai tempi del figlio del conte e dell'ufficiale francese, di notte il nido era sempre acceso, sempre in festa, e la vecchia, che allora era ancora giovane come una rosa, dava dei pranzi, dei balli, invitava la gente da Nizza e da Alessandria. Venivano belle donne, ufficiali, deputati, tutti in carrozza a tiro da due, coi domestici, e giocavano a carte, prendevano il gelato, facevano nozze. Irene e Silvia sapevano queste cose e per loro essere ben trattate dalla vecchia, ricevute, festeggiate, era come per me dare un'occhiata dal terrazzo nella stanza del pianoforte, saperle a tavola sopra noi altri, vederle Emilia fargli i versi con la forchetta e col cucchiaio. Soltanto, essendo tra donne, ci soffrivano. E poi loro tutto il giorno ciondolavano sul terrazzo in giardino. Non avevano un lavoro, una vera fatica che le occupasse. Nemmeno dietro alla santina ci stavano volentieri. Si capisce che la voglia di andarsene dalla mora, di entrare in quel parco sotto i platani, di trovarsi con le nuore e i nipoti della contessa, le faceva addirittura ammattire. Era come per me vedere i falò sulla collina di Cassinasco o sentir fischiare il treno di notte. Poi veniva la stagione che in mezzo alle alberi di Belbo e sui pianori dei Brichi rintronavano fucilate già di buon'ora, e Cirino cominciava a dire che aveva visto la lepre scappare in un solco. Sono i giorni più belli dell'anno. Vendemmiare, sfogliare, torchiare non sono neanche lavori. Caldo non fa più, freddo non ancora. C'è qualche nuvola chiara, si mangia il coniglio con la polenta e si va per funghi. Noi altri andavamo per funghi là intorno. Irene e Silvia combinarono con le loro amiche di Canelli e i giovanotti di andarci in birocino fino a Agliano. Partirono una mattina che sui prati c'era ancora la nebbia. Gli attaccai io il cavallo. Dovevano trovarsi con gli altri sulla piazza di Canelli. Prese la frusta il figlio del medico della stazione, quello che al tirassegno faceva sempre centro e giocava alle carte dalla sera al mattino. Quel giorno venne un grosso temporale, lampi e fulmini come d'agosto. Cirino e la Serafina dicevano che era meglio la grandine adesso, sui funghi e su chi li cercava, che non sul raccolto 15 giorni prima. Non smise di piovere a diluvio neanche nella notte. Il sor Matteo venne a svegliarci con la lanterna e il mantello sulla faccia. Ci disse di stare attenti se sentivamo il biroccio arrivare. Non era tranquillo. Le finestre di sopra erano accese. L'Emilia corse su e giù a fare il caffè. La piccola strillava perché non l'avevano portata a funghi anche lei. Il biroccio tornò l'indomani col figlio del medico che menava la frusta e gridando viva l'acqua ad Agliano saltò a terra senza toccare il predellino. Poi aiutò le due ragazze a scendere. Stavano infreddolite con un fazzoletto in testa e il cestino vuoto sulle ginocchia. Andarono sopra e sentì che parlavano e si scaldavano e ridevano. Da quella volta della gita a Agliano, il figlio del medico passava sovente nella strada sotto il terrazzo e salutava le ragazze e si parlavano così. Poi, i pomeriggi d'inverno lo fecero entrare e lui, che girava con degli stivali da cacciatore, si batteva il bastoncino sullo stivale, si guardava intorno, strappava un fiore o un rametto nel giardino, meglio una foglia rossa di vite vergine, e saliva svelto la scala dietro i vetri. Di sopra era acceso un bel fuoco nel caminetto e si sentiva suonare il piano, ridere fino a sera. Qualche volta quell'Arturo si fermava a pranzo. L'Emilia diceva che gli davano il tè coi biscotti, glielo dava sempre Silvia, ma lui il filo lo faceva a Irene. Irene, così bionda e buona, si metteva a suonare il piano per non parlargli. Silvia stava a pancia molle sul sofà e dicevano le loro sciocchezze. Poi si apriva la porta, la signora Elvira cacciava dentro la piccola Santina di corsa e Arturo si alzava in piedi, salutava seccato. La signora diceva «Abbiamo ancora una signorina gelosa che vuole essere presentata». Poi arrivava il sor Matteo che ce l'aveva su con lui, ma la signora Elvira invece gliele faceva buone e trovava che per Irene andava benissimo anche Arturo. Chi non lo voleva era Irene, perché diceva che era un uomo falso, che la musica non l'ascoltava neanche, che a tavola non sapeva stare e faceva giocare Santina soltanto per ingraziarsi la madre. Silvia invece lo difendeva, diventava rossa e alzavano la voce. Un bel momento Irene, fredda, si dominava e diceva «Io te lo lascio, perché non lo prendi tu?» «Buttatelo fuori di casa», diceva il sor Matteo. «Un uomo che gioca e che non ha un pezzo di terra non è un uomo». Verso la fine dell'inverno, questo Arturo cominciò a portarsi dietro un impiegato della stazione, un suo amico lungo lungo che si attaccò a Irene anche lui e che parlava soltanto in italiano, ma si intendeva di musica. Questo spilungone si mise a suonare a quattro mani con Irene e, visto che loro facevano coppia così, Arturo e Silvia s'abbracciavano per ballare e ridevano insieme. E adesso, quando Santina arrivava, toccava all'amico farla saltare e riacchiapparla al volo. «Se non fosse che è toscano», diceva il sor Matteo, «direi che è un ignorante. L'aria ce l'ha, c'era un toscano con noi a Tripoli». Io sapevo com'era la stanza, i due mazzi di fiori e di foglie rosse sul piano, le tendine ricamate da Irene e la lampada di marmo trasparente appesa alle catenelle che faceva una luce come la luna riflessa nell'acqua. Certe sere tutte e quattro si imbacuccavano e uscivano sul terrazzo nella neve. Qui i due uomini fumavano il sigaro e allora, stando sotto la vite vergine secca, si sentivano i discorsi. Veniva anche Nuto a ascoltare i discorsi. Il bello era sentire Arturo che faceva l'uomo in gamba e raccontava quanti ne aveva buttati giù dal treno a Costigliole l'altro giorno, o quella volta in Acqui che si era giocato l'ultimo soldo e se perdeva non tornava più a casa e invece aveva vinto da pagare una cena. Il toscano diceva: «Ti ricordi che desti quel pugno?» Allora Arturo raccontava quel pugno. Le ragazze sospiravano appoggiate alla ringhiera. Il toscano si metteva accanto a Irene e raccontava di casa sua, di quando andava a suonare l'organo in chiesa. A un certo punto i due sigari ci cadevano ai piedi nella neve e allora là sopra si sentiva sussurrare, agitarsi, qualche sospiro più forte. Alzando gli occhi non si vedeva che la vite secca e tante stelline fredde in cielo. Nuto diceva «vagabondi» con la voce tra i denti. Sempre ci pensavo e chiedevo anche all'Emilia, ma non si poteva capire come fossero accoppiati. Il sor Matteo brontolava soltanto su Irene e il figlio del medico e diceva che un giorno o l'altro voleva dirgliene quattro. La signora faceva l'offesa. Irene alzava le spalle e rispondeva che lei, quel villano d'Arturo, non l'avrebbe nemmeno voluto per servitore, ma non poteva farci niente se veniva a trovarle. Silvia diceva allora che lo scemo era il toscano. La signora Elvira si offendeva un'altra volta. Che Irene parlasse al toscano non era possibile, perché Arturo ci stava attento e comandava lui, l'amico. Restava dunque che Arturo faceva il filo a tutte e due e, sperando di prendersi Irene, si divertiva anche con l'altra. Bastava aspettare la bella stagione e andargli dietro per i prati. Si sarebbe visto subito. Ma intanto andò che il sor Matteo prese di petto quell'Arturo, la storia si seppe da Lanzone che passava per caso sotto il portico, e gli disse che le donne sono donne e gli uomini uomini, no? Arturo, che aveva giusto staccato a loro un mazzetto, si batté col frustino sullo stivale e, annusando i fiori, guardò storto il padrone. «Ciò nulla di meno», continuò il sor Matteo, «quando siano ben allevate, le donne conoscono chi fa per loro e tu», gli disse, «non ti vogliono». Capito? Arturo allora aveva borbottato questo e quello, che diamine era stato gentilmente invitato a passare di lì. Si capisce che un uomo non sei un uomo, aveva detto il sor Matteo, sei uno sporcaccione. Così sembrò finita la storia di Arturo e con Arturo anche del toscano. Ma la matrigna non ebbe il tempo di starsene offesa, perché ne vennero degli altri, tanti altri più pericolosi. I due ufficiali, per esempio, quelli del giorno che ero rimasto io solo alla mora. Ci fu un mese, c'erano le lucciole, era giugno, che tutte le sere si vedevano spuntare da Canelli. Dovevano averci qualche altra donna che stava sullo stradone, perché mai che arrivassero di là, loro tagliavano da Belbo, sulla pontina, e traversavano i beni, le meliche, i prati. Io avevo allora 16 anni e queste cose cominciavo a capirle. Con loro Cirino l'aveva su perché gli pestavano la medica e perché si ricordava che Carogne erano stati in guerra gli ufficiali come quelli. Di Nuto non si parla nemmeno. Una sera gliela fecero brutta. Appostarono il passaggio nell'erba e gli tesero un fil di ferro nascosto. Quelli arrivarono saltando un fosso, godendosi già le signorine, e andarono giù a rompicollo a spaccarsi la faccia. Il bello sarebbe stato farli cascare nel letame, ma da quella sera non passarono più nei prati. Con la buona stagione, specialmente Silvia, più nessuno la teneva. Adesso s'erano messe nelle sere d'estate a uscire dal cancello e accompagnare i loro giovanotti su e giù per lo stradone, e quando ripassavano sotto i tigli, noi si tendeva l'orecchio per sentire qualche parola. Partivano a quattro, ritornavano a coppie. Silvia si incamminava tenendo a braccetto Irene e rideva, scherzava, ribatteva coi due. Quando ripassavano, nell'odore dei tigli, Silvia e il suo uomo se ne stavano insieme, camminavano bisbigliando e ridendo. L'altra coppia veniva più adagio, staccata, e a volte chiamavano, parlavano forte coi primi. Ricordo bene quelle sere e noi altri seduti sul trave, nell'odore fortissimo dei tigli. Remo Girone ha letto La luna e i falò di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.